4 mattino di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. It's a bit early in the midnight hour for me to go through all the things that I wanna be. I don't believe in everything I see. You know I'm blind, so why do you disagree? Take me away, 'cause I just don't wanna stay. And the lies you made me say are getting deeper every day. These are crazy days, but they make me shine. Time keeps rolling by. All around the world, you gotta spread the word. Tell them what you heard. Banca d'Italia dice che il nostro paese avrebbe bisogno ogni anno di 200.000 immigrati, il che significa che se ci fosse maggiore organizzazione, se ci fosse un aiuto serio da parte dell'Europa, avremmo una ricchezza in più e avremmo meno sofferenze, molto meno sofferenze e meno morti. Vabbè, sembra che le previsioni accontentino l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Oggi sulla stampa si racconta che quest'anno, nel 2017, non arriveranno un numero di migranti come mai abbiamo visto. Come mai abbiamo visto. Più 70.000 rispetto al 2016. Queste le previsioni, eh? E a lei? Signori, sono le 6:31 minuti, questo è 24 mattino, ben ritrovati a tutti. Oggi sarà un'edizione un po' particolare, un po' strana, avverto anche delle presenze, cose. Baci a baci. Vabbè, sì, questa è la nostra conduzione 4.0 con Vincenzo De Luca, che presto prenderà il mio posto qui al microfono. Caro Vincenzino, caro presidente, è tutto a posto, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli con Peter Bescapè in regia. E autocontrollo. Ovvio, questo sempre ci vuole, caro presidente, sempre comunque. No, un'edizione particolare questa, lo dico subito, perché oggi è nato uno sciopero degli assistenti. Farabutti di ogni tipo. No, presidente, no. Mezze pippe. No. Il nostro Lorenzo Nespoli, la nostra Elisabetta Fusconi oggi scioperano, non lavorano. Questo vuol dire che non potremo prendere le telefonate degli ascoltatori, non potremo mandare... Che tristezza. Vabbè, presidente, ci accontentiamo adesso per una giornata, sentiamo. Non potremo mandare in onda ospiti al telefono, insomma non potremo fare tutto quel lavoro, anche i file audio, eccetera. Tutto quel lavoro molto prezioso per la trasmissione. Però siamo qua, in diretta. Mi fa venire un po' l'orticaria. De Luca, lei è uno un po' più di rispetto verso i lavoratori. De Luca, se vuole condurre qui 4.0, la versione di 24 mattino, dobbiamo un attimo avere un po' di autocontrollo. Pistole ad acqua. Ah, ecco, ad acqua, va bene. Allora, vi informo che in questo momento a Washington... Ci sta ascoltando da Washington Giancarlo e ci fa sapere che ci sono meno 5 gradi e parecchia neve. Mentre a Paina di Giussano 6 gradi. E vabbè. Dalla spiaggia di Belvedere Marittimo più 12, Salvatore. Saluto Salvatore. Rigore per la Juve. No, questo è l'ascoltatore che mi scrive. Buongiorno, buongiorno anche a te. Luca, 9 gradi a Perugia. Meno 10 a Columbus, Ohio, da dove ci ascolta il nostro Matteo, sempre in diretta, grande Matteo. 9 gradi a Parigi, nuvoloso, Marco da Parigi ci scrive, non l'avrei messo in dubbio. Mentre Walter ci dice da Budapest che oggi è meno 1 grado e festa nazionale. Che festa sarà mai? Io so che qualcuno ci dirà tutto, la festa nazionale dell'Ungheria. Saluto anche gli amici di Ripa Teatina, 8 gradi e nuvoloso, ci fanno sapere in questo momento in diretta, grande Ripa Teatina, quest'anno ci ritorno, 7 gradi a Rovigo. Non mi intrigo, così il nostro ascoltatore. Allora, la puntata è particolare perché, come ho detto, avverto delle presenze. Presenze fisiche. Presenze qui in studio. Tutti zitti. Tutti zitti. Parla Mauro Meazza. Siamo veramente alla barbarie. Buongiorno Alessandro. Ciao Mauro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno naturalmente a De Luca. Ovviamente che qui condurrà, sai che 4.0 ci siamo, ci siamo. C'è Mauro Meazza, l'ho sbrandato, gli ho detto Mauro devi venire qui perché c'è uno sciopero, devi stare in diretta con noi e quindi sei contento? Sono contentissimo, devo dire è un po' una faticaccia, ma vabbè, sempre meglio che lavorare, diceva qualcuno. Sì, questo è vero. Però insisterei molto col direttore del personale su una faticaccia. Di che c'è un collega che fa questa faticaccia da un po' di anni. Me lo segno subito, se non è in sciopero anche lui, magari glielo dico. Va bene. Allora, siamo qui al Parlamento di 24 Mattino, anzi apriamolo il Parlamento, cari ascoltatori. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, ovviamente gente, le notizie sono tante, qui discutiamo. Se volete mandarci delle domande, potete usare WhatsApp oppure gli SMS 349-238-6666. Niente, qua a Mauro ci dicono che ci sono 4 gradi a Copenaghen, 11 gradi a Tunisi. Io devo chiedermi perché tutti gli ascoltatori se ne stanno beati, felici, ma c'è una mole di ascoltatori dall'estero. Beati, felici, allegri, espatriati. Ma abbiamo capito perché c'è la festa nazionale. No, infatti io ho detto che a Budapest c'è la festa nazionale e tu avresti raccontato tutto della festa nazionale di Budapest. Ora, Mauro Meazza, che è la voce, il sole 24 ore, voglio dire, enorme tributi, cioè colui che sa le cose, ci spiega e spiega a tutti alle 6.36 che festa nazionale è in Ungheria. Guarda, non ne ho assolutamente idea, però ti posso parlare dello scambio di informazioni fiscali Italia-Svizzera, se vuoi, così. Ragazzi, tanto per... L'autorevolezza di Mauro Meazza, come fai a non sapere che festa è oggi in Ungheria? Non ne ho proprio la più pallida idea, non so, l'indipendenza, non riesco proprio a immaginarlo, anzi no, se ci aiuta qualcuno con WhatsApp, Alessandro. Se ci aiuta, vediamo un po'. Un suggerimento, chiedo l'aiuto da casa. Allora, ti do una mano, guarda, ti giro un computer. Eccolo qua, questa è la tastiera. Ti do anche un consiglio tipo google.it. Adesso cerco sull'archivio del Sole 24 Ore perché sicuramente l'abbiamo. Google.it. Hai spento il microfono forse intanto mentre facevi questa operazione. Va bene, sono cose. Google.it. Fai oggi è il 15 marzo, Sì, questo ero preparato. Ci siamo, vediamo. Abbi pazienza, con me non sono abituato a svegliarmi quest'ora. È una cosa molto bella, perché voi pensate che sia una cosa lenta, poco. Invece tanto voi siete lì ancora a stiracchiarvi sotto le coperte, la 15 marzo. Ci siamo. Risulta. C'è la festa in Ungheria. Sai che Peter Bescabeccia è già arrivato da 3 minuti. Allora, l'anniversario dell'inizio della rivoluzione ungherese del 1848. Come sai, allora, raccontaci un po' la rivoluzione ungherese del 1800. Ragazzi, stiamo facendo storia, stiamo facendo informazione qui, Questo perché tu non resti attaccato alla piccola cronaca spicciola di ogni giorno, che pure per carità noi dei giornali raccontiamo, ma ti voglio invece portare nel 1848, come sai, come dovresti aver studiato, alle scuole dell'obbligo. I moti del 48, c'era un capitolo così. Chi un non anno i moti del molto 48. Importante per i moti indipendentisti. E allora, una delle molte rivoluzioni del 1848 fu proprio quella ungherese, strettamente legata naturalmente ad altre rivoluzioni, sempre nelle aree dell'impero asburgico. Vuoi raccontarci anche un po' della fauna, perché c'è Piero Angela? No, ti voglio dire che la rivoluzione nacque, comunque potremmo anche prendere la cosa più seriamente, perché non vorrei che da Budapest ci ascoltassero e ci arrivasse anche una lagnanza della rappresentanza diplomatica. Sai che poi lì soprattutto sono adesso abbastanza cattivi, no? Nei confronti mi sembrano degli molto stranieri. Determinati, prima tu parlavi di immigrazione, ecco, non vorrei suscitare urtare la loro suscettibilità. Comunque nacque in seguito alla dichiarazione di indipendenza del popolo magiaro guidato dal liberale Lajos Kossuth. Beh, signore. Sicuramente ho pronunciato male. Signori, alle 6:39 minuti, qui si fa la storia, qui si fa informazione 24 mattino, altro che in Rai Educational, questi canali così. Allora, però, Mauro, ci sono tante notizie di cui possiamo parlare, io e te. Perché, parliamone seriamente. No, guarda. Allora adesso, seriamente, Pisapia dice 200.000 immigrati, la Banca d'Italia, servono per la ricchezza, eccetera. Nel giorno in cui sulla stampa c'è questo allarme messo proprio così, allarme migranti, sbarchi record, sono le previsioni del governo, 250.000 arriveranno nel 2017, sono 70.000 in più. Questo come previsione rispetto al 2016. Mauro, qui comunque chiunque la vede la può vedere dal proprio punto di vista, cioè i migranti sono una ricchezza perché fanno i lavori che noi non vorremmo fare, oppure chi dice no, i migranti sono un pericolo perché è una gestione che non sappiamo condurre in porto in maniera positiva. Tu come la pensi? Ah, io credo che, allora, innanzitutto non sono e non possono essere un problema solo nostro, cioè solo italiano. Sì. Lo abbiamo segnalato diverse volte, e sai che il nostro governo anche ha cercato, i nostri governi hanno cercato in più occasioni di avere un po' più di cooperazione da parte dei paesi dell'Unione. Oggi vorrei legarmi a questo fatto di cronaca, si vota in Olanda, sai che uno dei partiti proprio in lizza vorrebbe invece politiche molto più di chiusura. Abbiamo visto storie di integrazione, storie di emarginazione con i migranti. Allora, probabilmente l'approccio buonista sì, è umanamente comprensibile, però forse non fa i conti con tutte le situazioni che si creano con queste persone. Peraltro, Alessandro, noi un paio d'anni fa sul Sole 24 Ore avevamo pubblicato delle previsioni che parlavano di migrazioni appunto nell'ordine dei milioni, milioni di persone. No, ma è chiaro, ma cioè, voglio dire che siamo di fronte a uno scenario totalmente cambiato, anche solo guardare al di là del Mediterraneo, una Libia totalmente sfasciata, in preda a bande, no? Fuori controllo, e da lì poi partono tutti quelli che si mettono in marcia dal cuore dell'Africa e arrivano in Libia, laddove abbiamo un paese dall'altra parte del Mediterraneo totalmente, adesso non dico totalmente, ma politicamente non sotto controllo. È chiaro che era prevedibile trovarsi di fronte a questa situazione, soprattutto poi con crisi, guerre, carestie un po' in mezzo mondo. E tu sai che poi il problema di immigrazione si collega anche a questa crisi che c'è in questo momento con la Turchia, tra l'Olanda e la Turchia, perché uno degli accordi che sono stati presi con la Turchia riguarda proprio la politica, cercare di contenere le ondate dei migranti. È brutto dirlo, però questo è stato uno degli aspetti dell'accordo con l'Unione Europea. Quindi ora, sì, se ci sono delle tensioni tra uno Stato dell'Unione e la Turchia, vediamo che succede. Tra l'altro, caro Mauro, qui c'è un problema invece pratico. Ci sono moltissimi ascoltatori che via SMS, via WhatsApp dicono che la tua voce è diversa in onda e quindi preferiscono, puoi andare di là che ti chiamiamo al telefono e la facciamo al telefono, dicono è diversa, non sono abituato. Va bene, vado di là, però mi porto il computer, perché se poi sì, tu mi chiedi qual è la festa nazionale, che so, rumena, bulgara, dopo sono impreparato. No, scherzo. È naturalmente un agguato di Peter Bescapè che mi modifica la voce per farmi fare brutta figura. Ovviamente rimani con noi. No, un'altra notizia, visto che rimaniamo in Europa. Prima Mauro era molto colpito, prima di andare in onda ha detto attenzione, qui succede questa cosa in Germania, e l'ho visto molto preoccupato. Lui che è specialista in questa pratica delle cosiddette fake news, sapete cosa sono le fake news? Quando si scrivono minchiate, insomma, diciamo... Sì, ecco, diciamo che il termine tecnico minchiate esprime esattamente quello che vogliamo dire. Signori, attenzione, perché arriva un progetto di legge, ma in Germania... Per arrivare a sanzionare con quanto? Fino a quanto? Fino a 50 milioni di euro. 50 milioni di euro. Ma sì. Io dico, ma c'è un progetto di legge anche in Italia, di cui si è parlato un po' sotto traccia. Poi noi abbiamo provato anche a contattare, a chiamare i relatori, i proponenti di questa legge, non hanno voluto neanche parlare, no? Ma chi stabilisce cos'è una fake news intanto? Cioè quando una news, una notizia diventa farlocca, Beh, qui il progetto di cui riferiamo anche oggi sul Sole 24 Ore, è un progetto che riguarda soprattutto, vuole combattere soprattutto l'inerzia dei social network, cioè dei gestori veri e propri, perché dice il progetto, appunto come riferiamo oggi sul Sole, sono abbastanza, diciamo così, poco reattivi nell'intervenire quando ci sono ad esempio dichiarazioni, dei post, come si dice, di odio che incitano magari alla violenza. Vabbè, oppure quello fai una legge, che ne so, di istigazione all'odio razziale, c'è anche in Italia. Ma guarda, in realtà noi le leggi contro questo tipo di interventi, appunto razzisti o che incitano all'odio, sono in vigore, e anche in Italia ci sono, certo, e ci sono già state delle condanne per comportamenti. No, ma a me interessa quello, le cosiddette bufale. Cioè, se io scrivo che era rigore per la Juve, per esempio, quello col Milan, era una bufala? Prendo 50 milioni di euro. Secondo me sì. Dovrei prendere 50 milioni di euro di multa. No, il social network. Ah, tu magari poi puoi rispondere naturalmente ai tifosi juventini. Anche per quella cosa che hai detto degli scudetti, che se li devono ricomprare, che se li ricompri, ho detto che insomma, gli ha strappato 3-4 scudetti dalla parete, ricomprateli e attaccateli. Comunque, ecco, io devo segnalare da cronista che anche ieri sera la Juve ha avuto un calcio di rigore, si è vista segnare un calcio di rigore. È vero. A favore, adesso, magari è inutile precisarlo, ma lo dico per qualche dubbioso all'ascolto. Io non l'ho visto, è inutile precisare che era netto, sicuramente c'era, cioè proprio... Mi tocca ammettere che era netto, lampante. Una bella parata, no, di un difensore. Il tema molto, molto serio è: chi stabilisce il limite entro il quale, non so, una notizia può essere diffusa, una notizia farlocca ha superato il limite per il quale deve scattare una multa perché è stata diffusa troppo? Cioè, capisci che sono cose talmente opinabili che è molto difficile fissare un confine, infatti. Ma sai che anche quando si è discusso da noi, ricordavi prima di una proposta di legge, c'è stata subito giustamente anche una sollevazione per dire non è che possiamo colpire la libertà di opinione. Insomma, uno scrive un po' quello che gli pare, dovrebbero essere poi magari appunto i media più... ti piace media? I giornali, i siti dei giornali. E così via, ad essere vigili nella... No, ragazzi, è fantastico, ci ha già spiegato cosa succede oggi in Ungheria, ci ha dato lezioni di media, e adesso c'è la vera novità. Cioè, nel senso, adesso, caro Mauro, è un momento, un appuntamento che tu conosci molto bene e che dovresti lanciarci in diretta per la prima volta. Signori, si sta allargando la camicia, si sta schiarendo la voce, il petto in fuori. Mauro, è il tuo momento. Signore e signori, traffico! No, non dovevo dire traffico. Non è partito bene. Se lo puoi rifare. Rifacciamo. Allora, signore e signori, per tutti voi il traffico! Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Ragazzi, ve lo dico adesso, Emiliano diventerà il braccio destro di Renzi. Una grande constatazione, l'arroganza di Salvini è come quella di Renzi. Tutti bravi a parlare contro chi spara, ma di fare qualcosa contro i ladri che entrano in casa e rubano, no, quello no, lasciamo perdere, no? Io proporrei una cosa, come uno è obbligato a mettere un cartello davanti al cancello quando ha un cane che può aggredire, proporrei anche di mettere, per chi vuole difendere la casa con le armi e ha una pistola in casa, attenzione, proprietario armato. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's Corsa, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Signori, questa storia della legittima difesa o dello sparare, sentite cosa ha detto. No, sentite, no, non ve lo posso far sentire. Ma cosa ha detto il vescovo di Chioggia, caro Mauro Meazza? Oggi qui in studio c'è Mauro Meazza con noi, signori. Mi hanno chiamato solo per dire traffico, in realtà, però poi ogni tanto mi dai la parola, così mi tiri in ballo per questioni le più varie. Esatto. Ecco. Prego, parla pure del vescovo. Il vescovo di Chioggia ha detto che capisce un po' quelli che aggrediti sparano, e soprattutto ha detto a questi ladri: diamo ogni tanto dei vitalizi quando capita loro un incidente sul lavoro alla loro famiglia. Cioè, sta parlando di persone che magari vengono ammazzate e ricevono poi un risarcimento. Il vescovo di Chioggia. Incidente sul lavoro era in senso ironico, sì, scusami, chiaro, non avevo colto. Sì, ogni colto. Tanto dice fanno i lavori nelle ville, ogni tanto capita un incidente e si ritrovano le vedove con i vitalizi da 1.000 euro al mese. Questo devo dire che tuttavia era stato segnalato da qualche giornale, effettivamente. Forse, ecco, il vescovo però mi pare abbia una concezione un po' tutta sua della, come dire, dell'accoglienza, della pietas, queste cose, vabbè, qua. Insomma, non sono preparatissimo in teologia, però non mi ritrovo tanto con quello che mi avevano insegnato da bambino. È il vescovo, ecco, di Chioggia, sì. Ti sì, posso sì. dire che ci sono altre due feste nazionali in Ungheria importanti? No, signori, no. Vedete, questa è la deformazione professionale di norme e tributi. Prego. No, perché si festeggia me le segno, il 20 agosto, sappi, se vuoi andare. Ahia, sono in vacanza. Il 20 agosto è Santo Stefano, Santo Stefano, primo re dell'Ungheria, appunto, sì, quindi sì. Intorno all'anno 1000, e poi c'è il 23 di ottobre. Il 23 di ottobre. 23 ottobre perché è la festa della rivoluzione del 1956, ti ricordi la rivolta ungherese del 56, rivolta antisovietica? E tu vai coi non so, coi colbacchi, no? I colbacchi non sarebbero molto forse graditi. Non sono tanto in tinta. Vai a bruciare i colbacchi contro... No, io lo dicevo perché, visto che ti interessavi alle feste ungheresi, allora mi sono documentato e ti posso dire che ho trovato proprio feste. Un sito ufficiale ungherese, che però in italiano, perché io l'ungherese lo parlo malino, mi ha spiegato che ci queste sono cose. Anche questo tipo, signori, di feste. Signori, ma dov'è che imparate queste cose alle 6.51? Potete andare a lavorare ora più ricchi, più informati, altro che fake news. Qui dovreste voi darci 50 milioni di euro, anche un paio di milioni di euro ci accontenteremo. Se ce ne date 50, ne giriamo metà al Milan, e così magari facciamo questo closing e Mauro Meazza si compra quello che rimane del Milan. Guarda, ho visto che proprio oggi sono attesi i 100 milioni della terza caparra, perché si va un po' a caparre. Se lo comprano a caparra, a fine di dare caparre dice... Ma avete comprato il Milan? Ecco, però leggo dalla prima pagina di Finanza e Mercati, perché attenzione. Finanza e Mercati si occupa anche, appunto, di questo closing del Milan, che poi ne servono altri 220 milioni. Tu puoi mettere quanto potresti mettere di 220 milioni? I canonici? Due eurini. Vabbè, allora fanno 219 milioni e spicci per finire. Metti come quarta caparra 2 eurini. Oh, signori, questo era il messaggio che volevo. Io ho invitato Mauro Meazza perché in realtà aspettavo che si scaldassero poi gli ascoltatori per arrivare a questo, che poi è il mio sogno. Chiudiamo il Parlamento di Alessandro Milan e mettiamo Meazza ogni mattina. E questo sarebbe veramente... Certo, c'è una concorrenza, caro Meazza, devi sapere. Caro Maurino, devi sapere che la concorrenza è del nostro sommo, quello che aspira alla conduzione 4.0, che potrebbe in qualche modo scalzarti in questa il nostro mitico Vincenzo De Luca, che ovviamente è lì che guata, pronto, eh? Dilettantismo. Ecco, questo... Dilettantismo sicuramente da parte mia. Comunque io ringrazio l'ascoltatore che è sicuramente... Va bene. Ringrazio l'ascoltatore, è sicuramente un parente. No, non credo che sia un parente. Va bene, signori, io voglio fare, siamo quasi in chiusura, credo, di questo Parlamento, poi ci ritroviamo per la rassegna stampa. Voglio però fare un inno, lodi sperticate a un sindaco, il sindaco di Saronno. Siamo in provincia di Varese, per carità, cioè non mi interessa politicamente, credo che sia della Lega, ma non è questa la questione. Caro Mauro Meazza, sai cosa ha fatto il sindaco di Saronno? No, cosa ha fatto? Devo cercare la festa nazionale di Saronno? No, la sagra della polenta di Saronno, no. Il sindaco ha ingaggiato dei veri e propri agenti segreti, chiamiamoli così, sguinzagliati, bisogna dire proprio la parola, sguinzagliati, come dei cagnolini, per controllare e multare i padroni di cani senza paletta. Io vorrei fare un ode, facciamo una statua in bronzo, anche in oro massiccio, al sindaco di Saronno che va in giro, eh? Tu hai un cane, Mauro. Io no, devo tu hai un cane, no, e vai in giro senza paletta, no, di la verità. Io ho una tartaruga e quindi credo che non sia obbligatoria la paletta con la tartaruga, non mi risulta quantomeno. Tartaruga, come sai, sta nella sua vasca e sì. Poi